L'idea di realizzare un'università popolare da parte di Attac viene un po' dalla nostra esperienza negli ultimi paio di anni, in cui abbiamo realizzato tutta una serie di seminari, di discussioni, di iniziative proprio sui temi della globalizzazione e soprattutto sui temi legati alla politica e alla finanza internazionale. Tutti questi, seminari erano soprattutto finalizzati ad approfondire questi temi e facevano parte delle varie campagne che Attac ha realizzato all'interno del movimento. La nostra prima campagna è stata per la legge iniziativa popolare sulla Tobin Tax e successivamente ne sono seguite delle altre sui GATS, sull'Organizzazione Mondiale del Commercio, sulle banche armate e adesso ne stiamo realizzando un'altra anche sui fondi pensione. Noi ci siamo resi conto che questo dibattito su questi temi, la comprensione sugli strumenti e sulle proposte per opporsi alla globalizzazione neoliberista è abbastanza carente. I mezzi di informazione non informano a sufficienza su questo e pensiamo che per combattere delle lotte politiche su questi temi ci sia bisogno di una grande conoscenza dei temi legati alla globalizzazione e quindi tutta questa attività di educazione, di informazione si rivolge prevalentemente alla gente per cercare di stimolare una partecipazione, una mobilitazione che possa essere utile a creare quella massa critica che poi riesce spesso a muovere i macigni e a cambiare le decisioni della politica. Nell'università popolare è popolare in quanto si rivolge soprattutto alla gente comune e si realizzerà a Roma nell'arco di tempo che va da adesso, da novembre fino a giugno del 2005 e utilizzerà degli spazi messi a disposizione a volte dal Comune di Roma o degli spazi autogestiti appunto nelle periferie. Il ciclo di seminari ce ne sono cinque, il primo è sull'economia internazionale, poi ci saranno dei cicli sui rapporti nord-sud, sulle tematiche riguardanti la guerra, sulle tematiche ambientali e sull'Europa. Al di là di questi cicli già prefissati, ce ne saranno degli altri di approfondimento che verranno costruiti man mano che si va avanti nell'università sulla base delle richieste che verranno dai partecipanti. Noi pensiamo che uno degli elementi innovativi di questa università sia proprio il fatto che chi partecipa poi decide anche quali saranno i temi da approfondire o anche da chiarire. Un altro aspetto importante dell'università popolare è proprio quella della metodologia dei seminari, che sarà una metodologia partecipata, molto basata sul dialogo e sulla partecipazione, per cui saranno in una versione più seminariale che di lezione vera e propria con i metodi tradizionali.